Scusa se a quest'ora t'ho chiamato, ma non ne potevo fare a meno. Meglio se parlo piano, che se lo sveglio poi piangerà. Loro credo torneranno presto, credo perché mica gliel'ho chiesto. M'hanno lasciata con lui, carina sai. Casa da sogno qua, meno lontani mi sembrano già i progetti che ho fatto con te. Che strana voglia ho io, ti vorrei qui con me. Se fosse mio.